La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, bentornati alla Quota Rosa. Questa settimana andiamo a Piacenza al Festival del Diritto che si è tenuto dal 25 al 28 settembre e il nostro Andrea Silla ha realizzato delle interviste che toccano i temi classici della Quota Rosa, una riflessione ulteriore su quello che sono un po' i nostri cavalli di battaglia, e quindi iniziamo subito a parlare anche di testamento biologico. Con l'onorevole Melania Rizzoli della PDL, Commissione Affari Sociali, medico chirurgo specialista in medicina interna e autrice del saggio Perché proprio a me, edito da Sperlich & Kufer. Buongiorno. Buongiorno a voi. E la senatrice Franca Biondelli, PD, Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, professore dipendente ospedaliere. Allora, io partirei subito con una delle interviste del nostro Andrea Silla. L'intervista è al dottor Stefano Inglese, segretario nazionale del Tribunale per i diritti del malato. Sentiamo. È tutta la fase cosiddetta la fase terminale della vita, l'attenzione alla fine vita, che in questo momento è sotto i riflettori in maniera nuova. Il nostro servizio sanitario pubblico, il dibattito corrente, si è occupato poco di questa parte della vicenda di un individuo, di una persona, perché la stessa medicina, oltre che le politiche sanitarie, erano fino a ieri fortemente sbilanciate sulla fase acuta, sul guarire, tant'è vero che noi abbiamo una concentrazione di strutture ospedaliere, il nostro servizio sanitario si basa sulle strutture ospedaliere più che, come ci servirebbe oggi, sulle strutture territoriali. Oggi che dobbiamo convivere a lungo con la malattia ci rendiamo conto che abbiamo una quantità di altre questioni e problematiche delle quali tenere conto. Il fine vita è una di queste, è intervenuta drammaticamente nel dibattito, ci sono una quantità di valutazioni e considerazioni oltre che indicazioni di normative anche a livello internazionale che ci fanno dire che non siamo all'anno zero, c'è un dibattito che sta progressivamente maturando. Mi auguro che il Comitato Nazionale di Bioetica su questa materia esprima un'opinione, perché se ne sente assolutamente il bisogno. Ecco, abbiamo sentito uno dei temi scottanti. Ricordiamo che la CEI durante questi giorni ha detto no all'abbandono terapeutico, dare acqua e cibo ai malati terminali, l'ha detto appunto la conferenza finale di Monsignor Betori, l'ultima decisione spetta al medico. E poi ricordiamo invece che c'è stata un'illustrazione da parte del relatore della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, Raffaele Calabrò della PDL, e per avviare un primo atto dell'iter parlamentare sul testamento biologico che chiede anche la Chiesa stessa. Allora io chiedo all'onorevole Melania Rizzoli, PDL, Commissione Affari Sociali, dopo il caso Eluana si può parlare di testamento biologico? Che cosa manca nella legislazione italiana per poter essere chiari e per far sì che il medico non sia sempre davanti a un crocevia? Ma infatti io parlo soprattutto come medico, perché sono assolutamente d'accordo con l'intervista precedente. Noi medici ormai cronicizziamo la maggior parte delle malattie, cancro compreso, per cui abbiamo delle strutture che sono idonee ad affrontare l'acutezza delle patologie. La cronicità invece di moltissime delle patologie impone una nuova regolamentazione per non lasciare proprio solo il medico di fronte a delle scelte difficili. Io non voglio fare il paragone della sfortunata ragazza Eluana Englaro, posso soltanto dire che come medico non mi azzarderei mai a togliere l'idratazione a un paziente cosiddetto terminale, anche se Eluana terminale non è, perché Eluana non è attaccata a un respiratore, respira in maniera autonoma. E comunque ci vuole una regolamentazione che è già allo studio delle Camere per non decidere il fine vita, ma proprio per regolamentare le molteplici situazioni che sono vicine al fine vita. Ecco, lei come medico ha detto appunto Eluana non è attaccata a una macchina, ci sono dei casi, ma è mai... Si è mai svegliato qualcuno da quello che voi chiamate poi un coma irreversibile, un coma in stato vegetativo? Ma cioè... non è la questione di svegliarsi, è la questione che c'è un essere umano che si addormenta e si sveglia la mattina, che non riesce naturalmente ad alimentarsi in maniera autonoma essendo in coma, che però respira in maniera autonoma, non è attaccato ad un respiratore e quindi è in uno stato di coma cosiddetto vegetativo, che però non è un coma dipendente dalle macchine. Quindi io credo che difficilmente si trovi un medico disposto a sospendere l'alimentazione, e l'alimentazione non è una terapia. Franca Biondelli, PD, Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. Il Partito Democratico come si pone rispetto al testamento biologico? Sì, ma io sono di questo parere. Prima di tutto sicuramente va regolamentata, perché quello che si intende fare in Camera e Senato è proprio dare una regolamentazione per non lasciare che il medico decida come dare atto, no, a un'operazione a volte molto molto drammatica. Ecco, sul caso di Eluana, che si è molto dibattuto, io vorrei dire che ci sono purtroppo migliaia di altri nostri concittadini sparsi per il territorio gravemente invalidati e che purtroppo hanno bisogno di un supporto da parte delle istituzioni. Ecco, io direi proprio che ci sono anche, noi abbiamo tantissimo veramente per le cure acute, ma abbiamo poco per la cronicità, per esempio come gli hospice, no? Che ci sono moltissimi, per esempio, moltissimi, abbastanza nel nord e credo pochissimi nel sud. Quindi questo è anche un modo di procedere, perché anche la qualità della vita del malato terminale deve essere rivista un attimo, l'antalgica e quant'altro, perché anche lì ci sono ancora gravi carenze sulla terapia del dolore, che deve avere un immediato apporto quando il malato viene portato a casa. Per cui io penso che soprattutto dobbiamo regolamentare, andare verso questo disegno di legge. Il PD, il Partito Democratico, ha questo disegno di legge di Ignazio Marino e anche quello del collega senatore Bosone, appunto, che cerca di vedere, proprio per come si è espressa la CE, no? Nel Partito Democratico noi sappiamo che ci sono anche un'anima cattolica molto viva, per cui cercare veramente di trovare una soluzione per alleviare la sofferenza, per poter capire qual è il momento più giusto per poter dire basta. Ecco, io credo che su questo, però a un certo punto bisogna dire basta, certamente questa è la mia visione da cristiana cattolica. Certamente una persona che non ha un respiratore, che è soltanto idratata, soltanto alimentata, va sicuramente valutato in modo più profondo, perché sicuramente non ha tutto, diciamo, riesce ad ha una possibilità magari di riuscire così a vivere in modo più discreto, però sicuramente va regolamentato proprio per legge questo momento drammatico che ogni famiglia vive. Poi in modo personale, perché quello che magari noi riteniamo sbagliato per un certo tipo di paziente, a volte per la famiglia ha una visione completamente diversa, perché noi dobbiamo ricordare anche le famiglie quanto soffrono, quanto dolore, e quante spese vanno incontro queste persone. Ecco, quindi comunque anche in questa nuova legge magari di cercare di tutelare a livello anche economico le famiglie. Abbiamo parlato della fine della vita, vorrei fare un inciso sull'inizio della vita, perché il Papa è intervenuto ieri contro la contraccezione. I metodi contraccettivi che impediscono la procreazione dei figli snaturano il senso ultimo del matrimonio, anche se poi ammesso molti fedeli trovano difficoltà a comprendere gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Quindi vediamo due moniti molto forti rispetto ai temi della vita della Chiesa Cattolica. La quota rosa. Allora, Abbiamo sentito che sia l'onorevole Melania Rizzoli PDL sia la senatrice Franca Biondelli del PD vogliono e chiedono una legge sul testamento biologico. Si sono impegnate anche a cercare di far sì che il Parlamento possa discutere di questi temi. L'onorevole Melania Rizzoli PDL è favorevole anche, come ha detto la senatrice Franca Biondelli, a sostenere economicamente le famiglie dei malati terminali? Ma sicuramente sì, anche se i malati terminali dovrebbero essere assistiti tutti in strutture adeguate, perché chi assiste un proprio paziente al fine vita a domicilio sa quanto è gravoso il compito. E comunque ribadisco che questi sono temi etici, sono temi importantissimi che non hanno colore politico, quindi io sono sicura che si arriverà sicuramente ad un accordo tra maggioranza ed opposizione su questi temi. Soprattutto bisognerà regolamentare l'accanimento terapeutico, che è la cosa più importante proprio che attende delle regole ben precise. Ecco, abbiamo sentito sui temi della vita anche il Papa contro la contraccezione, ha detto molti fedeli non ci seguono, la Chiesa trova molte difficoltà a far capire questa cosa anche ai cattolici. Allora, la Chiesa è intervenuta sul testamento biologico, interviene anche sulla fase iniziale della vita, non sembra un pochino scollato il pontefice Benedetto XVI con questo rimprovero sulla contraccezione? Onorevole Rizzoli, lei per esempio è cattolica praticante? Io sono una cattolica praticante e comunque la Chiesa quel compito ha, il compito di tutelare la vita, assolutamente. Noi siamo arrivati anche come Parlamento ad una contraddizione in termini, cioè abbiamo per esempio fatto una legge, cioè la scorsa legislatura, non in questa, è stata fatta una legge per trovare dei genitori adottivi a degli ovuli che sono degli ovuli congelati, gli cosiddetti ovuli sovrannumerari, si trovano già dei genitori adottivi senza che diventeranno mai individui, mentre dall'altra parte abbiamo una legge che giustifica l'aborto, voglio dire, cioè sì, che regolamenta soprattutto l'aborto, certo. Quindi anche da parte nostra c'è una contraddizione. Anche perché lei parla della 194, questo intervento del Papa sulla contraccezione però rischia poi veramente di generare più donne che magari invece a quel punto non hanno usato contraccettivi e oltre purtroppo ad aver avuto magari contagi con degli uomini che erano positivi all'HIV, perché questo succede se non si usano i contraccettivi e se si fa sesso con una persona che non si conosce, magari rimangono incinte e non vogliono il bambino. Quindi questo appello alla contraccezione non è un po' controproducente per la Chiesa? Io non ho letto questa notizia data dal pontefice, comunque certo è una contraddizione, perché oggi ci sono determinati casi in cui la contraccezione è assolutamente indispensabile. Franca Biondelli, PD, sì. Questo appello del Papa è una nuova ingerenza, come viene visto a sinistra? Ma guardi, io sono del PD ma sono cattolica cristiana, il Papa sicuramente porta avanti quello che è il messaggio evangelico e quindi porta avanti un suo messaggio. Sicuramente quello della contraccezione è un problema abbastanza vissuto, insomma non è pensabile, certamente la vita è sacra, la Chiesa tutela la vita, certo uno fa un figlio, cerca di fare il suo meglio, ma non è possibile che uno per 10-20 anni possa avere rapporti completi comunque, perché insomma dovrà pure regolamentare un minimo la propria vita. E poi giustamente, come diceva, anche sulla legge sull'aborto, certamente tuteliamo la vita, l'aborto non deve essere sicuramente un contraccettivo, ho fatto sesso e poi vado ad abortire, sicuramente questa non è la visione giusta, ma vogliamo mettere una violenza all'interno della famiglia? Quante volte magari figli violentati dai propri padri, magari violentate, stuprate e rimaste incinta, vogliamo vedere anche questo aspetto, no? Come può una ragazza di 15-16 anni portare avanti una gravidanza del genere? genere, io credo sia qualcosa di veramente di grande impatto. Ecco, quindi, sicuramente sono cose che vanno dibattute, viste, e cercare sempre di tutelare il massimo possibile la vita umana. Sicuramente bisogna avere anche una visione di quello che può essere un dramma di una famiglia, un problema di una ragazza di 15 anni, 16 anni, e di uno stupro, di una persona che ha già avuto 5 o 6 figli e che magari non sa. Sì, no, ecco, perché lui parla appunto i metodi contraccettivi che impediscono la procreazione dei figli, snaturano il senso ultimo del matrimonio. Lui parla, dobbiamo dirlo a difesa del Papa, riguardo al matrimonio, però come lei ci ha detto già la sua opinione, una coppia deve essere anche in grado di programmare un pochino la vita. Un'altra cosa fondamentale, quindi, mi sembra che il mondo politico cattolico, l'onorevole Melania Rizzoli, la senatrice Franca Biondelli, di due schieramenti opposti, a favore della legge sul testamento biologico, sull'intervento del Papa sui metodi contraccettivi, invece, forse, come dice proprio Benedetto XVI, anche i cattolici trovano difficoltà a seguirlo. Io passerei, sempre con voi due, a un altro tema forte della Quota Rosa. È un tema che è di natura etica ugualmente, ed è il tema della tratta delle schiave, della prostituzione, quando la prostituzione ha dietro un racket. Allora, sentiamo l'intervista realizzata da Andrea Silla durante il Festival dei Diritti di Piacenza del 25-28 settembre, l'intervista a Paolo Borgna, procuratore di Torino. Quando si studiava ai tempi dell'università reato di riduzione in schiavitù, pensavamo, 30 anni fa, quando io ho fatto l'università, pensavamo a un relitto della storia, un reato che c'era nel codice del 30 ma che non avremmo mai applicato. Dopodiché è successo, succede che i mostri ritornano, magari con facce e forme diverse, ma ritornano. Oggi ci troviamo a contrastare il fenomeno dello sfruttamento violento legato ai flussi di immigrazione che vengono dall'est Europa e in particolare dall'Africa, in particolare dalla Nigeria, riutilizzando questo vecchio strumento che allora ci pareva un vecchio arnese, che è il reato di riduzione in schiavitù. Un reato che il legislatore del 2003 ha rimodellato, ha riscritto facendo riferimento alle forme nuove con cui si presenta questo fenomeno, però rimane il titolo del reato, riduzione in schiavitù, che noi oggi applichiamo nelle nostre indagini per colpire appunto il fenomeno dello sfruttamento violento e del commercio di queste persone, contestando in questo caso il reato di tratta. Allora, noi sappiamo che il ministro Mara Carfagna, il ministro delle pari opportunità, si è occupato di prostituzione, lo sappiamo, abbiamo anche dedicato una parte della Quota Rosa a questo problema, ma qui c'è un aggravante, c'è il reato di sfruttamento, il reato di schiavitù. Onorevole Melania Rizzoli, PDL, che cosa fa il governo per combattere il racket? Che cosa sta facendo il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi affinché vengano puniti chi esercita la tratta delle persone umane? C'è il disegno di legge del ministro Carfagna che, attenzione, volevo precisare, non è un disegno di legge contro la prostituzione ma contro lo sfruttamento della prostituzione. Noi tutti sappiamo che ormai in Italia non c'è più la prostituzione italiana, è solo una prostituzione di persone, individui di immigrazione, soprattutto dei paesi vicini, che vengono portati sulle strade, e oltre il 70% di queste ragazze e ragazzi, io chiamo persone perché anche una prostituzione maschile, sono minorenni. Quindi è soprattutto a loro che si rivolge il disegno di legge del ministro Carfagna, contro lo sfruttamento della prostituzione, tant'è che le misure di legali sono contro gli sfruttatori soprattutto. Senatrice Franca Biondelli, PD, come giudica il disegno di legge del ministro Carfagna? Io per intanto dico contro lo sfruttamento della prostituzione, e poi vediamo, va bene, contro lo sfruttamento della prostituzione, togliamo queste povere disgraziate, perché è proprio una disgrazia finire su una strada, no? E quindi togliamole pure dalla strada, però io non vedo il dopo, cioè cosa facciamo? Pensiamo veramente che siccome diventerà reato, siccome è reato lo sfruttamento e questa legge porrà fine alle ragazze di strada e abbiamo risolto i problemi. Ecco, io vedo che è un problema complesso, è una piaga che non può continuare in queste dimensioni, perché le prostitute vengono picchiate, uccise, poi le indagini che vengono fatte purtroppo portano magari non a molto, ma dobbiamo vedere il dopo, come possiamo arginare poi questo problema, cioè le togliamo dalle strade, va bene, e poi le abbiamo risolte. Io non credo, dobbiamo veramente capire, discutere e vedere come possiamo arginare al massimo questo problema, sicuramente non soltanto dicendo se io ti vedo cliente ti do 1.000 euro di multa e tu prostituta 2.000 e poi vediamo se, cioè, perché c'è già molte associazioni cattoliche non che cercano appunto di toglierle dalla strada e poi di reinserirle nel mondo del lavoro, ma sicuramente va data una mano da parte del governo, non può essere che delle associazioni debbano fare quello che spetta fare le istituzioni, quindi vedo che potrebbe essere utile quello, ma non vedo comunque risolto così il problema. Quindi lei dice... Il democratico sta iniziando appunto un disegno di legge per vedere come potremo, stiamo discutendo anche noi all'interno, come possiamo fare per poi arginare questo, perché il problema non si risolve poi così. Ecco. Io ringrazio allora l'onorevole Melania Rizzoli, PDL, Commissione Affari Sociali, e la senatrice Franca Biondelli, PD, Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. La quota rosa. Professoressa Saraceno, che effetto le fa sentir parlare di famiglia quando nella realtà di tutti i giorni, anche guardando un condominio, nei vari appartamenti di un condominio, si vedono tantissime forme di famiglie diverse e tante famiglie diverse? Sono diverse anche perché anche la famiglia più tradizionale non rimane mai la stessa nel corso della sua vita. Ci si mette in coppia, si fanno dei figli, poi i figli crescono, escono di casa, si rimane da soli o da soli dal punto di vista dell'abitazione, ma magari arrivano dei nipoti per cui si allarga la rete delle relazioni, poi magari si rimane da soli perché si rimane vedovi, più spesso vedove che vedovi. In realtà vediamo anche questi diversi stadi, diciamo così, fasi della vita, e poi c'è anche chi si separa, chi si risposa, e i figli transitano tra una famiglia e l'altra. Anche stando dentro alla definizione più convenzionale, non possiamo fissare la famiglia in un'unica fase del suo percorso, ma proprio non intendo il percorso storico, proprio intendo il percorso biografico di una famiglia. Dal punto di vista del diritto c'è soprattutto un problema a riconoscere non tanto questa evoluzione, diciamo così, non naturale, ma biografica della famiglia, quanto a riconoscere che le sequenze possono essere diverse, cioè prima uno convive e poi si sposa, oppure non si sposa mai ma continua a convivere. Uno si sposa, fa dei figli, ma poi si separa e ne sposa un altro, e quindi queste relazioni diventano un po' più complicate di quelle normate dal diritto. Ci sono appunto quelli che convivono senza sposarsi mai e fanno anche figli. Ci sono anche coppie omosessuali che si dichiarano e si definiscono famiglie a tutti gli effetti. C'è un bellissimo libro pubblicato da Einaudi, un libro che si chiama Matrimoni, che è dedicato a coppie omosessuali che definiscono il proprio rapporto così solido come un matrimonio. Insomma, abbiamo sentito il parere di Chiara Saraceno, professore di sociologia della famiglia all'Università di Torino, intervistata dal nostro Andrea Silla durante il Festival del Diritto di Piacenza. E per parlare di famiglia, per parlare di quello che il nostro Parlamento e i nostri parlamentari fanno per venire incontro alle famiglie moderne, abbiamo con noi la senatrice Elisabetta Alberti Casellati, PDL, sottosegretaria alla giustizia, avvocato. Buongiorno. Buongiorno. Moderna. E la senatrice Anna Maria Serafini, PD, membro della Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali e vicepresidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia. Inoltre abbiamo anche Valeria Aviolasit, presidente nazionale di Arcidonna. Allora iniziamo subito dalla senatrice Elisabetta Alberti Casellati, ora al governo, sottosegretario alla giustizia. La famiglia non è più quella che noi conoscevamo. Le leggi italiane sono adeguate? Ma le leggi italiane mi appaiono adeguate, nel senso che la professoressa Saraceno ha fatto un'analisi sociologica della nostra società dicendo che il diritto non riconoscerebbe le sequenze diverse che una famiglia, una coppia, anche la più tradizionale, può avere nella società. In realtà noi, è vero, abbiamo il matrimonio così come regolato dal nostro ordinamento giuridico e abbiamo avuto di recente la richiesta da parte del conviventi di avere alcuni riconoscimenti giuridici dei loro diritti. Qui si è aperto non solo dei conviventi eterosessuali, ma anche dei conviventi omosessuali. Il ministro Brunetta sta parlando di didorè, che sono diritti e doveri che non dovrebbero pesare allo Stato, non ci sarebbe la reversibilità delle pensioni, insomma, ha illustrato questa possibilità. Ma guardi, il riconoscimento è stato molto, questo è un problema discusso da molto tempo. Io dico, per quello che riguarda i conviventi, essi non vogliono avere una famiglia, altrimenti anche civilmente si sposerebbero. La convivenza, oggi che esiste un istituto come il divorzio, è una scelta di libertà e quindi quelli che convivono non vogliono essere famiglia proprio per non, dico fra virgolette, compromettersi nell'impegno di rendere conto anche giuridicamente, anche pubblicamente, di quello che accade nel matrimonio. Quindi hanno ritenuto liberamente di porsi fuori dalle regole e quindi appare un po' strano che oggi richiedano tutela da quell'ordinamento che hanno rifiutato. Questo è il mio punto di vista. Allora aspetti senatrice Casellati, perché le faccio rispondere dalla senatrice Anna Maria Serafini, PD, membro della Commissione Istruzione Pubblica. È così? Chi sceglie di convivere si mette fuori dalle regole e quindi tutto sommato non vuole tutele? No, non credo che, anzi, tutti i conviventi chiedono delle regole e in particolare chiedono la possibilità di essere sostenuti anche nelle politiche sociali. Molte famiglie di conviventi hanno anche dei bambini, le politiche pubbliche devono in primo luogo preoccuparsi del benessere dei bambini, oltre che dei loro genitori. Quindi io credo che le politiche di sostegno alla famiglia, per esempio, debbano essere estese a tutte le famiglie italiane, quindi comprese quelle che decidono di convivere. Questo è per me assolutamente essenziale. Siccome nel nostro paese c'è purtroppo una tradizione che ha portato a un investimento per le famiglie molto debole rispetto agli altri paesi europei, rispetto al PIL, cioè noi spendiamo meno della metà della media europea per le famiglie, per i bambini e adolescenti, abbiamo alcune storture, alcuni nodi che vanno sciolti e risolti, perché poi quando vediamo il tasso demografico, il tasso di occupazione femminile o il tasso di istruzione nel nostro paese, vediamo che tutti sono collegati al fatto che abbiamo un tipo di welfare debole, che trasferisce poche risorse finanziarie e ancor meno servizi. Ecco, la politica cerca di rispondere o almeno parla di risposte possibili. Credo che nel nostro paese si sia più, la politica sia in generale più preoccupata di definire regole di maggioranza piuttosto che di riconoscere i diritti individuali. Cioè, troppo spesso ho sentito dire ma in fondo sono una minoranza le coppie di fatto, tanto più gli omosessuali, ma perché ci dobbiamo preoccupare di loro? Come se in un paese democratico il diritto di tutti e di ciascuno non fosse uguale, cioè non fosse possibile. Allora l'avere delle relazioni significative, che per convenzione chiamiamo familiari, è un diritto inalienabile, verrebbe di dire, ed è anche sancito dalla Costituzione, che nell'articolo 2 parla del diritto di vedere riconosciute le formazioni sociali, in questo linguaggio un po' aulico, in cui ciascuno esprime la propria personalità. La cosa paradossale nel nostro paese è che questo articolo è stato utilizzato per fornire riconoscimento, uno statuto giuridico ai sindacati e alle associazioni, e non è stato usato per fornire un riconoscimento ai rapporti che gli individui considerano molto importanti per loro. Abbiamo sentito quindi il parere di Chiara Saraceno, professore di sociologia della famiglia all'Università di Torino, intervistata da Andrea Silli. Elisabetta Alberti Casellati, abbiamo sentito anche il parere di Anna Serafini del PD. Non è vero, non si investe sulla famiglia, ha detto Anna Serafini, non si investe sul welfare, non ci sono risorse. Oh, guardi, è molto impreciso tutto questo, perché per esempio io ho proprio in mente, come sottosegretario alla giustizia in questa legislatura, ma l'avevo già fatto nella scorsa legislatura e Anna Serafini lo sa bene, per esempio per quello che riguarda i bambini e la tutela dei bambini, io ho sempre sostenuto, e davvero allora lì sì, in una situazione di minoranza, che i bambini, sia legittimi che naturali, cioè quelli nati all'interno del matrimonio, quelli nati da una convivenza, devono avere lo stesso status giuridico. Tutti i bambini devono essere uguali di fronte alla legge e di fronte alla società, perché oggi è disumano che esistano ancora queste distinzioni. Io ho cercato nella scorsa legislatura, noi non eravamo al governo, di fare anche degli emendamenti su questo. Io spero in questa legislatura di riuscire a far passare questo concetto, che io lo trovo un principio di civiltà giuridica, sociale, morale. Quindi un conto è la questione dei bambini, che devono essere tutti uguali, senza aggettivazioni, senza discriminazione. Un conto è la situazione della coppia o dei genitori, ognuno nella vita sceglie quel che vuol fare. Allora, abbiamo sentito il parere di Elisabetta Alberti Casellati. La quota rosa. Diritti dei bambini, diritti degli adulti, diritti dei genitori, convivenza, insomma, sono stati toccati vari temi. Valeria Aviolasit, giusto, presidente nazionale di Arcidonna, dov'è che i diritti dei bambini diventano anche diritti delle madri? Quando è che la legge è carente? Forse sarebbe molto più utile parlare rispetto anche alle modifiche di cui raccontava appunto la Saraceno, di questa realtà italiana che è molto complessa e profondamente modificata. Insomma, siamo abituati a leggere questa realtà italiana fatta soltanto da famiglie, quando non è più così. Mi piacerebbe che in questo nostro paese si cominciasse a parlare di diritti alle persone, perché se non partiamo da lì non capiamo davvero il tipo di intervento che dobbiamo fare quando parliamo di welfare, quando parliamo di interventi legati ai servizi alle persone e anche alle famiglie, proprio per questa complessità, per questa articolazione, cioè ognuno ha deciso di costruire il suo progetto di vita in maniera differente, c'è chi si sposa, c'è chi non si sposa, c'è chi vive liberamente in coppia, per questo non deve essere punita, perché non è che esiste soltanto un unico modello, vorrei dire alla sottosegretaria, ce ne sono tanti. Se non vogliamo mettere in discussione la libera scelta delle persone di vivere, di costruire il loro progetto affettivo come meglio credono, allora se poi vogliamo punire le persone che decidono un progetto rispetto ad un altro, mi sembra questo un paese, insomma, non troppo democratico e un paese assolutamente non libero. E che sempre di più la composizione della famiglia è fatta da single, le percentuali, l'Istat stesso dice che quasi il 26% ormai sono famiglie single, e oltre la metà dei single sono donne anziane e il 90% sono donne con i figli a carico. E allora di questa realtà uno Stato, un paese civile, laico, democratico, reagisce come? Dovrebbe reagire pensando ad una costruzione di welfare profondamente diversa. E invece continuiamo a parlare di un paese che non c'è più, di un'organizzazione sociale che non c'è più, è questo che davvero mi sconvolge. E allora ci sono i bambini, ma ci sono le donne, ci sono i single, ci sono le persone. È sulle persone che un paese civile deve fare i conti. Se non si preoccupa di questo, è un paese che non risponde più ai mutamenti profondi della nostra società. Io penso che ci sia dietro tutto questo, nel nostro paese, una grande battaglia culturale. È un paese che continua ad attardarsi a vecchi modelli che ormai non esistono più. Abbiamo sentito il parere appunto del Presidente Nazionale di Arcidonna, che è un parere concordato con Chiara Saraceno, professore di sociologia della famiglia all'Università di Torino, ma vogliamo per le nostre politiche ancora dare un punto di riflessione. Sentiamo l'intervista realizzata da Andrea Sil a Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista. Una battuta sui tempi che lei citava, affidi, adozioni, sembra che per le star di Hollywood i tempi siano strettissimi, velocissimi, in realtà sappiamo che non è così. Allora, per le star di Hollywood vale un altro diritto, che è il diritto americano. Noi abbiamo il civil law, loro hanno il common law, che è basato su principi del tutto diversi, sui fatti pratici. Poi, se è una questione di denaro, secondo me non è neanche scandaloso, perché se ci sono delle istituzioni che danno più facilmente in adozione i bambini alle persone ricche, forse lo fanno nell'interesse dei bambini, non nell'interesse proprio, non lo so, ma questa è una mia idea. Un'ultima cosa, quanto è difficile per un genitore avere un bambino in adozione, quanto è difficile per una coppia invece di genitori, un genitore singolo e una coppia di genitori? Allora, il problema dell'adozione è un problema ampio, grave, che risente di tutte le problematiche che ho appena finito di dire, della giustizia, dei giudici, degli assistenti sociali, degli psicologi, eccetera. È molto difficile, tanto che io sono un po' di anni che non mi dedico più alle adozioni, perché non avevo la forza di gestire la frustrazione dei genitori che aspettavano, e vivevo con idea l'angoscia di questi bambini in un lettino di un orfanotrofio, che adesso non ci sono più, in attesa che qualcuno li volesse. Trovo che sia scandaloso il comportamento dello Stato nei confronti dell'adozione, trovo anche che sia ormai ora di affrontare per esempio l'adozione da parte dei gay. Non siamo noi che possiamo dire se il bambino ha diritto o no ad avere una coppia genitoriale formata da maschio e femmina, quando ormai sappiamo che l'omosessualità non è una devianza, ma è uno stato naturale, e quindi è anche giusto che persone dotate di sentimenti, affetto, intelligenza e capacità siano messe in condizione di potersi occupare di qualcun altro invece di lasciarlo a se stesso, appunto, in un lettino di una stanza anonima. Abbiamo sentito l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista. Allora, la domanda che io pongo alle nostre ospiti, mi raccomando una risposta breve: che cosa ne pensate dell'adozione per single o per coppie gay? Elisabetta Alberti Casellati, PDL. La società è cambiata, si può pensare a un'adozione per singolo o per gay? Ma la società è cambiata, ma non vorrei che nel ricostruire la società noi volessimo pensare che tutto quello che è possibile diventa lecito, perché questa mi pare che la strada verso la quale qualcuno vorrebbe andare. Io personalmente dico, sono un po' contraria all'adozione da parte dei singoli, anche perché il discorso che faceva Anna Maria Bernardini De Pace di questi bambini abbandonati, oggi ci sono molte più domande di adozioni rispetto ai bambini disponibili. Noi, ma non nel mondo, non nazionali, sì, ecco, abbiamo pochi bambini. Allora io, e questo lo dico per la mia esperienza anche professionale, perché prima di essere sottosegretario sono avvocato matrimonialista, quando un bambino, un giudice chiede con chi vuoi stare dei genitori che si stanno separando, lui dice con entrambi, esprimendo un bisogno di famiglia e un riferimento rispetto ad una mamma e ad un papà. Quindi perché noi vogliamo, nel momento che andiamo a costruire qualcosa di nuovo, fare una brutta coppia di quella che è una cosa naturale per un bambino? Quindi la devo interrompere perché abbiamo pochissimo tempo. No, in tutti e due i casi, allora, per lei. Senatrice Anna Maria Serafini, PD, membro della Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali, lei è favorevole alle adozioni per singolo oppure per coppie gay? Guardi, quando facemmo la legge, tra l'altro fui l'autrice di questa legge quando chiudemmo gli orfanotrofi, pensavamo che l'adozione dovesse essere molto più celere e abbiamo aumentato anche l'adozione in casi particolari. Poi al centro deve essere messo il benessere del bambino, quindi quando noi pensiamo di modificare la legge dobbiamo sapere che vanno temperati sì i diritti e i bisogni degli adulti, ma soprattutto nel caso dell'adozione al centro deve esserci il bambino. Poi le cose che possono essere fatte fin da ora sono tantissime, ad esempio c'è un'interpretazione che viene data dalla legge e non appartiene alla legge medesima, che questo aiuterebbe molto i bambini, l'adozione e l'affidamento, che un bambino dato un affidamento a una famiglia poi possa, nel momento in cui è dichiarato in abbandono, non essere dato a una famiglia diversa, anzi è privilegiata la famiglia diversa da quella in affidamento. Questo è un modo di ragionare che è invalso nel passato per evitare che l'affidamento fosse un aggiramento della legge sull'adozione. Bene, anche in questo caso al centro deve essere messo il bambino, quindi va favorito in tutti i casi la presenza del bambino in un contesto familiare e quindi, per esempio, anche in questo caso, privilegiando il bambino, va privilegiato il rapporto che lui ha con la famiglia anche affidataria. Quindi sono tante le cose che potrebbero essere fatte, come c'è una necessità assoluta di aumentare i servizi sociali che debbono sostenere l'affido e l'adozione, così come rapporti internazionali più robusti per consentire l'adozione internazionale. Insomma, lei è favorevole a delle adozioni che siano diverse. Valeria Aio Valasit, giusto? Perché esatto. Perfetto, finalmente ci siamo riusciti a fine trasmissione. Esatto, presidente nazionale di Arcidonna, un breve flash: adozione coppie gay, adozione single. Ma io sono d'accordo sia in un caso che nell'altro, e anche perché i modelli familiari o il modello familiare non è più quello di una volta, e vorrei anche lì ricordare che forse dovremmo smetterla di enfatizzare questa famiglia italiana, perché questa famiglia italiana, lo dice l'Istat, è la famiglia dove accadono i maggiori casi di violenza alle donne e dove accadono i maggiori omicidi nei confronti delle donne da parte dei mariti, dove accadono anche delle tragedie di omicidi nei confronti dei bambini. Quindi è sempre molto, non bisogna mai generalizzare e pensare che tutto è meraviglioso e può esserci la famiglia perfetta, ma la famiglia che ha gravissimi problemi, può esserci una coppia gay che vive benissimo, anzi meglio di tante altre, quindi è in grado di adottare e di curare dei figli, così come può anche essere che ci sia una donna che ha desiderio di maternità e decide da single di o adottare o fare una figlia. Cioè dovremmo forse smetterla di esprimere giudizi pensando che non è il nostro progetto di vita, ma è il progetto degli altri. Abbiamo sentito dei pareri molto molto diversi, ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione e ringraziamo anche Andrea Sil per le interviste che ha fatto durante il Festival del Diritto a Piacenza dal 25 al 28 settembre. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito. Ci interrompiamo un attimo per ritrovarci subito dopo la pausa. Vi do appuntamento alla seconda parte, dove parleremo di famiglie, famiglie allargate, famiglie e diritto, adozioni per coppie gay. Noi ci risentiamo subito dopo la pausa.